l'Avenue, chi a Milan l'Avenue per Laura, per fa su quater danè, gira, gira, e un alter pret a truà un bel laur, le andà fa il muradur, per fa su quater danè, dai lavora, sei un terrone, dai lavora che tu sei forte, dai addio qualche soldo per comprarti il tuo al di là. Il padrone gli disse, per accordo con il prete ti trattengo un tanto al mese per la chiesa e la carità. Le andannanze a Strangident per Trian e Quatermes la fa su un bel po' de jazz, col lavoro e la carità. Dai lavora, sei un terrone, dai lavora che tu sei forte, dai addio qualche soldo per comprarti il tuo al di là. Le cascà l'alterdì, le borlà dal campanil, le restà lì in ciudà, con le gambe analisà, con la lettera del prete, le tornà al suo paese, le andà via da Milan, le andà vive carità, non lavori, sei un terrore, con le gambe rotte e morte, con i soldi dati a Dio, hai comprato il tuo al di là. Quando suona la santa messa, giù al paese o il mattutino, lui è lì su di un gradino a cercar la sua carità, lui è lì su di un gradino a cercar la sua carità, lui è lì su di un gradino a cercar la sua carità, la, la, la.